1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sono le 7:19 minuti e ci siamo, cari ascoltatori, pronti con la rassegna stampa a raccontare quello che succede attraverso l'occhio e la lente dei giornali. Ah, i giornali, che belli i giornali. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Ragazzi, dai, tuffiamoci! Giovedì 10 marzo, siamo qui coi titoli. Ogni quotidiano oggi fa un'apertura diversa, non c'è una notizia che si impone sulle altre. Il Sole 24 Ore, le borse scommettono sul bazooka della BCE alla vigilia delle decisioni di Francoforte, listini in rialzo in tutta Europa, Milano la migliore. Sulle banche e sull'economia si concentra anche Libero, occhio al mutuo, le banche alzano i tassi, ecco come pagare meno. Mentre il Corriere della Sera apre su questo nastro drammatico, che abbiamo sentito la voce di uno dei rapiti poi uccisi in Libia. Chiama tutti, aiutatemi! L'ultima telefonata di Failla dalla Libia, sono solo, e un rapitore parlava italiano. Repubblica invece, la Tangentopoli del fisco, a Roma 13 arresti, indagini da Milano a Catania, giudici tributari nel mirino, e questa è la notizia da cui aprirò tra poco nell'approfondimento. Mentre la Stampa, allarme migranti, vertice al Quirinale, il governo teme 140.000 arrivi in Puglia dopo il blocco di confini Slovenia, Croazia e Macedonia. Le primarie ancora per il Messaggero, schede gonfiate, colpa nostra la vicenda di Roma, dove il PD ammette il boom a Roma, appunto, di schede bianche. Il Fatto Quotidiano mette la vicenda delle primarie insieme a quella della RAI. Fanno come vogliono, primarie truccate, ma è tutto regolare per il PD, e RAI 3 normalizzata, fuori Giannini, Iacona ridotto e TG3 di governo. Va bene, le aperture, come vedete, sono davvero diversificate. C'è anche il giornale fa una scelta diversa. L'immigrazione e terrorismo, pagavamo il profugo imam che stava per far saltare Roma. Comunque, come detto, voglio iniziare da questa storia che Repubblica mette in prima pagina, pagina 2 e 3. Tutti i giornali ce l'hanno ben in rilievo. La leggo per esempio dal Sole 24 Ore a pagina 10. Ivan Cimmarusti racconta ricorsi tributari pilotati, 13 arresti a Roma. Attenzione, perché per Repubblica potrebbe essere l'inizio, con una serie di indagini in tutta Italia, di una tangentopoli fiscale. Corruzione nelle commissioni tributarie di Roma e del Lazio, scrive il Sole. Sulla base di un tariffario della tangente era possibile annullare le cartelle esattoriali comprando una sentenza di favore, ma non solo, perché con una bustarella si potevano raggiungere conciliazioni con l'Agenzia delle Entrate che andavano a vantaggio di imprenditori finiti nel mirino del fisco. Questo è il nocciolo della vasta indagine di Roma con la Guardia di Finanza di Frascati per far luce sul supposto mercimonio di sentenze tributarie. Un sistema interrotto ieri con l'arresto di 13 persone tra giudici, non di ruolo, tributari e commercialisti. Tra loro figurano Luigi De Gregori, già arrestato a novembre 2013 per fatti simili, già condannato a 4 anni con sentenza di patteggiamento. Manette anche per i giudici Onofrio Donghia di Paola, della Commissione Provinciale, Salvatore Castello della Regionale, per 2 commercialisti, Rossella Paoletti, Salvatore Buellis e Daniele Campanile, dunque 3, per l'ex funzionario delle entrate Tommaso Foggetti. Tra gli indagati c'è anche l'attore Massimo Giuliani, accusato di aver pagato una tangente da 65.000 euro per una sentenza di favore. Ripeto, per il Quotidiano Repubblica, che dà ampio risalto, mette a pagina 2 e 3 questa notizia, è proprio l'inizio possibile di una tangentopoli che si potrebbe estendere in tutta Italia. Esplode da nord a sud, racconta Sandro De Riccardis a pagina 3. Porta in carcere giudici, avvocati, commercialisti, professori universitari, imprenditori, e la tangentopoli fiscale da Milano a Catania passa per Roma e attraversa il paese. E come il primo arresto di Mani Pulite nel 92, con Mario Chiesa fermato con la mazzetta di 7 milioni di lire, lo scorso 17 dicembre la Guardia di Finanza, travestita da avvocati, arresta il giudice della Commissione Tributaria di Milano, Luigi Vassallo, con una busta da 5.000 euro infilata nella giacca. Vassallo, avvocato cassazionista, docente a Pavia, che risulta ancora consulente dal marzo 2015 in materia di conflitto anche per il governo, in materia di conflitto di interessi, ha appena incassato la prima rata di una tangente da 30.000 euro per intervenire su una esterovestizione da svariati milioni. E non è un episodio isolato, da lì si indaga e da lì, racconta Repubblica, si potrebbe estendere davvero questa tangentopoli fiscale. Staremo a vedere, certo. Mi sembra anche giusto il rilievo dato a questa vicenda, visto che con l'Agenzia delle Entrate e col fisco tutti noi italiani abbiamo a volte qualche contenzioso aperto, diciamo così. Mentre dicevamo, viene dato ampio risalto anche a questa vicenda di Roma. Io non so se dire che abbiamo preso un sedicente imam che millantava di voler far saltare la stazione Termini, non si sa in questi casi... Insomma, se sono voci o se davvero aveva pensato di intervenire con un piano operativo, sta di fatto che, come è giusto che sia, racconta Giovanni Bianconi sul Corriere della Sera, pagina 18, ancora prima che iniziasse qualsiasi proposito organizzativo, è stato fermato grazie alle intercettazioni, microspie che hanno registrato frasi del tipo: cominciamo dall'Italia, andiamo a Roma, cominciamo dalla stazione, facciamola saltare, è sufficiente avere una grande fede, non serve molto altro per farsi esplodere, attrezzarsi e farsi saltare in aria è la via più semplice. La guerra continua, Charlie Hebdo era solo il precedente di quello che sta succedendo adesso. Ecco, per queste frasi è stato arrestato questo 22enne imam di origini somale che istigava la jihad. Tra l'altro, fa sapere il giornale, beffa delle beffe, progettava l'attentato a Roma ed era intanto ospite nel resort a nostre spese, perché era uno di quelli giustamente che chiedeva, dicendo: vengo dalla Somalia, chiedo, ho diritto a essere considerato profugo, e viveva in Molise in un centro accoglienza di lusso, racconta il giornale. C'è anche la foto, effettivamente non è male, il resort dove viveva, almeno a giudicare dalle foto, una bella piscina di almeno 20-25 metri. Questa a nostre spese, nel senso che se era uno che chiedeva di essere profugo, nel frattempo era mantenuto dallo Stato italiano, come si sa. A proposito di giustizia, però, vi ricordate quando abbiamo ospitato Maurizio Tortorella settimana scorsa, vice direttore di Panorama, che ha firmato questa inchiesta su Panorama, a dire lanciamo una proposta come c'è in vari stati europei, e cioè: se vieni assolto, se vieni, diciamo, finisci in un processo, ma vieni assolto, è giusto che le spese legali vengano pagate dallo Stato, perché sennò uno si deve pagare anche le spese legali. Questa legge c'è in vari paesi europei. Panorama ha lanciato questa iniziativa e ora questa iniziativa fa un passo concreto, perché ha raccolto 175 firme di altrettanti senatori in una concretizzazione di un disegno di legge promosso dal senatore Gabriele Albertini. E infatti Panorama torna su questa vicenda, che finisce anche sugli altri giornali. Il Giornale, pagina 10, ecco la riforma bipartisan: l'avvocato degli assolti dovrà pagarlo lo Stato. È la campagna di Panorama che sbarca al Senato. 176 senatori hanno firmato il testo. Finora c'è solo l'indennizzo solamente per l'ingiusta detenzione, mentre l'idea è questa: vieni assolto, paga le spese legali lo Stato. Oh, siccome vi ho dato delle brutte notizie, lo so, vi devo dare una bella notizia. Devo cercare di mantenere questa tradizione. Vi voglio leggere allora il buongiorno di Massimo Gramellini, in prima pagina sulla Stampa. È condito da una foto che vi devo solo descrivere, perché una foto, anzi ve la faccio vedere, eccola qua, potete vederla tutti. Peter Vescapè è l'unico che aguzza la vista e cerca di vederla. È straordinaria questa immagine, perché voi ascoltatori mi state dando del deficiente, lo so, ma Peter Vescapè invece è lì che dice: fammi vedere la foto. Perché allora la foto, c'è la foto di un pescatore brasiliano e un pinguino che si baciano proprio sulle guance, come due amici che si incontrano, no? E allora Scrive Massimo Gramellini: tra i gesti d'amore che tengono in piedi questo pianeta, sfuggendo ai radar dei media tarati sul male, ogni tanto ne affiora in superficie qualcuno. L'Independent ha raccontato la storia di João, pescatore brasiliano in pensione, che camminando sulla spiaggia si imbatté in un pinguino intriso di petrolio. Decise subito di legarlo a sé, dandogli un nome, Dim Dim. Ma impiegò una settimana a togliergli il catrame dalle piume, parecchi mesi a rimetterlo in sesto con scorpacciate di sardine. E quando Dim Dim ebbe recuperato le forze, mutato le piume, João lo restituì alle onde del mare. Succedeva nel 2011. Ma da allora, ogni estate, Dim Dim, cioè il pinguino, percorre 8.000 chilometri per tornare alla spiaggia brasiliana in cerca dell'amico pescatore. E appena riconosce la sua sagoma raggrinzita dagli anni e dal sole, lancia un suono stridulo, il suo personalissimo inno alla gioia, e da lui, solo dal pescatore, si lascia avvicinare e toccare e baciare, aggiungo io, come si vede dalla foto. La gratuità dell'amore genera gratitudine, almeno nei pinguini. Non è buonismo, è pinguinismo. È umanesimo, voglio sperare. In fondo, dall'Isis a Wall Street, tutte le comunità disumane e dispinguine hanno un tasso di ferocia misurabile dalla distanza che separa i loro gesti da quelli di Dim Dim e João. Bello, questo buongiorno di Gramellini, no? Effettivamente mette di buon umore. E allora roviniamolo questo buon umore con l'articolo che ci fa più incazzare della giornata, l'articolo che è su Libero, a firma Marco Gorra, pagina 5. In Europa crescono del 50% i fondi per le auto blu. All'Europarlamento, l'Eurocasta mette il turbo, fa sapere Libero, perché al Parlamento europeo sta per andare in votazione una proposta per aumentare del 50% il budget destinato al trasporto dei deputati. 6.800.000 euro l'anno non bastano, bisogna raddoppiare fino a quasi 10.500.000 di euro dei contribuenti per scarrozzare gli europarlamentari. Insomma, mani sul volante delle auto blu. Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Alessandro Milan, la scheda bianca dell'informazione. Le schede bianche, insomma, adesso parliamo delle primarie del PD. Ringrazio effettivamente Gabriele da 100 che mi scrive dicendo: ma scusa, hai detto che è aumentato del 50%, che non vuol dire raddoppiare. Cosa avevi in matematica? Zero? Effettivamente non avevo zero, però sì, ho sbagliato. Sì, aumento del 50%. Vabbè, no, però avevo 5, 6 e mezza a volte. Ho preso anche degli 8 in matematica, ma sono stati degli eventi rari. Allora, grazie comunque, Gabriele, per la correzione che mi hai fatto. Matita blu. Allora, le primarie, il caos delle primarie. Ci sono giornali che dedicano il Corriere della Sera. Dunque, vediamo 1, 2, 3, 4. 5, 6 pagine alle primarie, le polemiche, cosa succede. Altronde, a Napoli Bassolino è arrabbiatissimo. Però non si dica che il PD non rispetta le regole, non si dica questo. Il ricorso di Bassolino è stato respinto perché è stato presentato oltre le 24 ore dopo la chiusura dei seggi. Quindi il PD ha detto: la regola è questa, vedete che le regole si rispettano nel PD. E dunque no al ricorso di Bassolino. Ora Bassolino è molto molto arrabbiato. Anche Pierluigi Bersani, l'ex segretario del PD, a pagina 5 del Corriere della Sera, intervistato da Alessandro Trocino, dice: c'è disagio dei cittadini, dei militanti del PD, quello che è successo a Napoli sono fatti incredibili, così gli elettori non ci seguono. E lo stesso Bassolino viene invece intervistato da Repubblica. Ora medita di fare una lista propria, una roba che aveva escluso subito. Però una volta che c'è il ricorso respinto perché non lo ha presentato nei tempi giusti, ecco che Bassolino è arrabbiato e ora può succedere di tutto. Lasciamo stare la guerra, premette Bassolino, intervistato da Concita Sannino, a pagina 11 di Repubblica. Non è nel mio stile la guerra, io rispetto le regole, ma perché dovrei accettare mai qualcosa di così offensivo? Ha capito che i garanti si sono rifiutati di esaminare il mio ricorso e con qualche codicillo poi Dicono che era stato presentato oltre il termine, ma se io ho telefonato loro dopo aver visto quei filmati lanciati da Fanpage e ho annunciato il ricorso, perché non mi hanno detto con chiarezza «guarda, sei fuori tempo»? Invece, guarda caso, da Roma si lanciano commenti assolutori. Napoli, dice Bassolino, merita dignità e rispetto. Il punto è questo. Il problema è che non dovrebbe condurre questa battaglia il candidato Bassolino. Dovrebbero porsi nella stessa determinazione tutti i candidati. Anzi, dovrebbe farla il PD questa battaglia, per il suo bene. Ed ecco allora che Bassolino però non chiarisce cosa farà. C'è tempo, vedremo, e sorride. Tanti me lo chiedono. Comunque, a fianco all'intervista a Bassolino parla Valeria Valente, che invece è intervistata sempre da Repubblica, è colei che ha vinto. Niente brogli né camorra, il risultato è regolare. Io e Bassolino non ci siamo mai mancati di rispetto, gli ho riconosciuto subito coraggio, grande battaglia. E dice 31.000 voti sono tutti di quel genere, cioè del passaggio della banconota, ma distinguiamo, una cosa è dare l'euro a un anziano. Un sostenitore di Bassolino ha confessato di essersi fatto prestare l'euro. Se invece è un modo per conquistare il voto, allora no, è da respingere. Comunque la Valente dice vittoria regolare. Anche a Roma c'è il mistero delle schede bianche che, come ieri raccontavano alcuni dirigenti del PD, che oggi confermano al Messaggero, sono state gonfiate volutamente, cioè per fare una bella figura, a dire non hanno votato solo in 40.000, vedete, hanno votato in 50.000 quasi, e quindi hanno gonfiato le schede bianche. Poi si sono resi conto, sono tornati indietro, hanno ammesso questo pasticcio, chiamiamolo così. E il Messaggero racconta di un Giachetti irritato per primo. Giachetti che ieri chiedeva: ma chi è stato il genio che ha deciso questa cosa? Insomma, anche a Roma le polemiche, l'imbarazzo per le schede bianche. Renzi però tira avanti, non solo, come racconta Maria Teresa Meli sul Corriere, come racconta Goffredo De Marchis su Repubblica, Renzi è arrabbiato con la minoranza del PD. Mi tirano sempre in ballo, aspettano un mio passo falso e nel frattempo logorano, stanno un po' dentro e un po' fuori. Così racconta Repubblica, ieri Renzi diceva della minoranza del PD. E allora pensa a una mossa, una sorta di out-out a Bersani, a D'Alema, agli Speranza, se volete ai Cooperlo, insomma alla minoranza. Firmate una sorta di vincolo di lealtà oppure strade divise. Questo Renzi mediterebbe all'interno del PD. Nel centrodestra invece, beh, c'è un po' di confusione, addirittura Salvini che dice in un eventuale ballottaggio potrei votare il Movimento 5 Stelle, col 5 Stelle che a Roma deve togliersi di dosso la Lega in qualche modo, a dire non c'è nessun accordo, per carità. Oggi parla Silvio Berlusconi, intervistato dal Messaggero. Intervistato da Mario Aiello, un'intervista a pagina 5, Berlusconi si dice sicurissimo, sentite qui, ballottaggio, la Lega voterebbe la Raggi. Guardate, il ballottaggio non ci sarà, vincerà Guido Bertolaso al primo turno. Così Berlusconi è sicuro al 100%, ne sono convinto, è l'uomo giusto per far ripartire la capitale, Guido Bertolaso. Senta, Storace però sostiene che ci sia un patto segreto tra lei e Renzi per dare il Campidoglio al PD. Ma Storace ha un buon tempone, risponde Berlusconi. Ma quale accordo segreto con Renzi? Queste sono solo battute paradossali. E a proposito di accordo, Aiello gli fa la domanda che tutti in realtà vorrebbero fare a Berlusconi, perché su questa questione degli accordi, il patto del Nazareno... Come fa a togliere dalla testa degli italiani l'impressione che Verdini sia il continuatore del patto del Nazareno con il suo placet? Perché è una cosa, ripeto, che è molto diffusa come convinzione. E Berlusconi risponde: non mi risulta che siano gli italiani a pensare questo. Fingono di pensarlo solo alcuni opinionisti di sinistra che fanno circolare questa voce, ma i fatti li smentiscono. Insomma, un Berlusconi che dice a Salvini chiedo lealtà, è mal consigliato e Bertolaso vincerà il primo turno. Saltiamo da Roma a Milano, perché a Milano, giura il Fatto Quotidiano con Gianni Barbacetto a pagina 4, entro 48 ore ci sarà un'altra candidatura di cui si parla molto e che è sulla bocca di molti. Gherardo Colombo, ex PM del Pool Mani Pulite, ora va in giro soprattutto per l'Italia a parlare di legalità ai ragazzi nelle scuole. Colombo ancora 48 ore prima di candidarsi. Il fatto che la Balzani, ex vice sindaco, anzi attuale vice sindaco, si sia sfilata da una lista arancione pro sala apre la strada a Gherardo Colombo, che entro 48 ore dovrebbe annunciare: mi candido a sinistra. Va bene, grandi movimenti. Ora succede questo e vi giuro è tutto vero. Un ascoltatore ci ha mandato poco fa via WhatsApp al 349-238-6666 la foto di un compito fatto da sua figlia. Non ci dice quanti anni ha, ma presumibilmente è sicuramente alle elementari. Potrebbe essere in terza, in seconda elementare, in terza, quarta, adesso non lo so, perché più o meno sono i compiti di mia figlia. In questo compito c'era indica dei personaggi che hanno delle doppie. Primo personaggio, Pippo. Secondo, Pippi calze lunghe. Terzo, vi giuro, Mauro Meazza. Mauro Meazza, più che personaggio, cara bambina, personaggetto. Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Sono lusingato. Sono comunque lusingato nonostante il tuo tentativo di sminuirmi. Farai prendere un 4 a questa povera. Farai prendere un 4 a questa povera bambina, pensate. Ma magari lei intendeva invece citare il più noto Giuseppe Meazza. No, c'è Mauro Meazza, non far finta, ti ho mandato la foto, c'è scritto Mauro Meazza. Va bene, senti, veniamo, facciamo rapidamente un attimo di cose più rilevanti che non nella mia persona. E tra l'altro io avrei voluto esordire in inglese oggi, anzi posso ancora farlo. How are you, caro Milan? Perché oggi sai che oggi con il Sole 24 Ore cominciamo English 24, che è un corso, un book magazine, poi assistito anche da una parte internet, per parlare l'inglese per davvero, non diciamo l'italiese che qualche volta, ohimè, parliamo. Parlerà un perfetto inglese Draghi e ne parlerà a Radio 24, ne parleremo sul Sole 24 Ore di domani, che oggi è atteso con il varo di ulteriori misure di stimolo, di pungolo alla crescita, il super quantitative easing. Vedi che c'è l'inglese sempre, certo. Quindi prendi English 24. Oh, guarda che parliamo parecchio anche di mutui casa, sì, perché prosegue questo dibattito sul decreto legislativo, sai, quel recepimento della direttiva, ti espropriano la casa entro 7 rate, no, entro 18, come ecco, no? va avanti il percorso con ulteriori modifiche, ma guarda che oggi, siccome è giovedì e c'è Casa 24, parliamo anche delle altre misure che già esistono per chi non riuscisse a pagare la rata del mutuo, quindi puoi leggere Vito Lops su Casa 24. Oh, naturalmente di Equitalia e della Tangentopoli fiscale già hai detto, quindi di questo, de hoc statis, questo è latino, non è inglese. Sì. Invece ti voglio segnalare che Equitalia sarebbe disponibile a dare un'ulteriore riapertura a chi non riesce a pagare le rate, ma trovi tutto in norme e tributi. Oh, poi, guarda, voglio chiudere, ci sono molte altre cose, ma il tempo è tiranno, e allora ti segnalo soltanto, caro Alessandro, guarda che coltivare cannabis per uso personale è comunque reato. È vero. Ecco, la Corte Costituzionale ha ribadito: leggi, norme e tributi e mettiti il cuore in pace. Soprattutto, traffico! Alessandro Milan, il Real Madrid dell'informazione! Magari. Magari sarebbe meglio il Barcellona, ancora meglio, però sempre meglio della Juve o dell'Inter. Allora, cari ascoltatori, dobbiamo parlare di questo audio drammatico, bisogna usare questo aggettivo, perché l'audio drammatico è l'audio che è stato diffuso dalla famiglia Failla, è l'audio appunto di Salvatore Failla, uno dei due italiani che è rimasto ucciso in Libia. La moglie di Failla racconta l'ultima telefonata di cui c'è appunto l'audio, una telefonata nella quale il marito chiede disperatamente di muovere tutto il possibile, avvertire i giornali, avvertire i telegiornali, ti prego, aiutami. E tra l'altro nella telefonata si sente la voce anche di uno dei rapitori che parla italiano, italiano stentato. Dov'è mio marito a un certo punto? Fatemi parlare con lui, chiede la moglie dall'altra parte del telefono. Chi parla in italiano risponde: Rosalba non c'è, lo hanno portato via. Era il 13 ottobre. Dopo quel giorno il telefono della moglie di Failla è squillato molte volte con un numero libico, ma io non ho più risposto, dice la moglie, come racconta Dino Martirano a pagina 2 del Corriere della Sera. Non ho mai risposto perché ho fatto quello che mi dicevano dalla Farnesina, cioè dal Ministero degli Esteri, perché dicevano intorno alla vicenda di mio marito e dei suoi compagni si stava lavorando e ora mi sento in colpa per non aver fatto nulla. E ribadisce tra l'altro la vedova: non voglio politici ai funerali. Questo lo dice proprio nel giorno in cui sono tornate anche qui con grande fatica le salme, la sua e del compagno, cioè Fausto Piano, uccisi in Libia. Venendo alle cose italiane, vi segnalo alcune notizie che mi hanno colpito, mi sembrano meritevoli di essere segnalate. Flavia Amabile racconta a pagina 5 della Stampa un rapporto Union Camere Infocamere. L'artigiano è immigrato, gli stranieri aprono, gli italiani chiudono. La crisi ha colpito soprattutto gli italiani che non sono stati capaci di adeguarsi alla nuova realtà, cambiare obiettivi di vita, trovare alternative che esistono. Ci sono riusciti invece gli immigrati. L'anno scorso le imprese individuali aperte da cittadini nati fuori dall'Unione Europea sono state 23.000 in più rispetto all'anno precedente. In totale le imprese di questo tipo hanno superato quote 350.000, sono il 10,9% delle imprese individuali che operano in Italia, detenute dunque da immigrati. 5 anni fa invece erano 100.000 in meno e nel 2011 erano solo l'8% del totale. Dunque, cosa fanno? Poi soprattutto operano nel commercio, il 46% di queste imprese, il 21% nelle costruzioni, ma anche il 6% nel turismo, nelle servizi alle imprese e l'8% in attività manifatturiere e anche in agricoltura, ma la maggior parte nel commercio. Dunque le imprese individuali in questa relazione, soprattutto di immigrati che sanno, diciamo, adattarsi ai cambiamenti, ecco, diciamo così. Mentre quest'altro articolo che ho trovato su Repubblica riguarda noi italiani e il rapporto con i farmaci. Michele Bocci su Repubblica, pagina 21, farmaci no logo è flop, nessuno ferma la corsa delle medicine griffate. Cioè, solo un italiano su 4 quando entra in farmacia predilige i generici. La maggior parte chiede l'Aulin, non il Nimesulide. Si chiede l'antibiotico Augmentin anziché l'acido clavulanico. Si chiede la tachipirina anziché il paracetamolo. Insomma, gli italiani sono disposti a pagare di tasca propria per averli e ogni anno spendono la bellezza di 1 miliardo di euro per assicurarsi il medicinale con il brand. Mentre in Germania e Regno Unito il successo degli equivalenti c'è perché sono usati da 6 pazienti su 10, qua un italiano su 4 preferisce andare sulla marca, il nome del farmaco conosciuto. Una buona notizia invece la racconta Il Secolo XIX, giornale sempre attento, ha fatto varie inchieste in passato al gioco d'azzardo legalizzato. Il governo ora, racconta Marco Menduni a pagina 8, vuole tagliare le slot machine, le macchinette, metterne non più di 4 in ogni bar. Il sottosegretario Baretta, che segue questo settore, dice che il governo darà più potere agli enti locali per combattere il mercato europeo dell'azzardo. L'Italia detiene il 15% di questo mercato, ha l'1% della popolazione mondiale, ma il 4,4% del mercato totale. E dunque il governo, c'è un progetto per dare più potere agli enti locali e frenare la diffusione delle macchinette. soprattutto nei bar. Questo racconta il Secolo XIX. Va bene, siamo in conclusione, siamo alla carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, eccolo qui, Filippo Facci, che ieri ho lodato per la questione dell'articolo dell'omicidio a Roma, oggi invece fa tutto un articolo che parte in prima pagina su Libero per raccontare che Fulco Pratesi torna a convincerci a risparmiare acqua, farsi la doccia ogni 10 giorni. E dice Facci, sì, si risolve il problema della siccità, ma resterà quello della puzza. E insomma, cosa fare? Lavarsi, non lavarsi, puzzare o non puzzare? Ma chi se ne frega!